Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con le riviste settimanali e mensili, come sapete sia il sabato che la domenica qui su Radio 24. Da ieri trovate in edicola con il Sole 24 Ore un mensile di cui parliamo in modo ricorrente, che è il mensile appunto proposto al Sole 24 Ore. È in realtà una sigla, non sta solo per un articolo, ma la sigla è Intelligence in Lifestyle. Il numero di questo mese dedica la sua copertina al Giappone, con proprio una serie di ideogrammi in copertina spiegati a beneficio di tutti, con una scritta invece in italiano: la vita dopo l'apocalisse. In che senso? Nonostante 20 anni di crisi, spiega la stessa copertina di Hill, e il colpo finale del dramma nucleare, risorge il mito del Giappone. All'interno poi di Hill trovate molte pagine dedicate appunto alla cultura giapponese. Parlavamo proprio la settimana scorsa, sempre qui a Magazine 24, di come su molti settimanali ci fossero diverse firme che si interrogavano sulla capacità di reagire in modo composto ma efficace da parte dei giapponesi, cioè di non farsi sopraffare dal panico nonostante appunto il cataclisma che hanno subito. Su Hill, naturalmente, oltre al Giappone, trovate come sempre, se conoscete questa rivista, questo mensile, trovate come sempre molte altre cose, molte rubriche. È da una delle pagine di Global Report, sono le prime pagine di Hill, che traggo la notizia che vi vado a segnalare. C'è un problema per quanto riguarda i cavalli in Irlanda. Perché ve ne parlo? Perché già quando è cominciata la crisi, in qualche modo la crisi economica ha intaccato il grande culto dei cavalli che c'è in Irlanda, al punto che la cosa qua risuonava sacrilega. Insomma, si è deciso che non si poteva più allevarne una parte e si sarebbe dovuto poi macellarli. Insomma, un'aggiunta a questa vicenda, sempre appunto legata al cattivo stato dell'economia in Irlanda e in generale insomma in tutto l'Occidente, è quello che viene da Hill, da Alessandro Giberti: pony randagi. Perché anche qui ancora la crisi economica pesa sui cavalli della tigre celtica. In questo caso non c'è un problema di mantenerli, ma proprio vengono abbandonati e vagano per i campi, ci racconta appunto da Dublino Giberti. C'è una preoccupazione comprensibile da parte dei veterinari. Alcuni dati che accompagnano questa notizia, che se volete è un dettaglio chiaramente rispetto a quello che provoca la crisi sugli umani, pare quasi bizzarro volersi preoccupare degli animali, ma ci dà in qualche modo il segnale, ci serve per misurare quanto grave può essere stato l'impatto. E infatti alcuni dati che accompagnano proprio questa pagina di Hill ci segnalano la diminuzione degli occupati, degli stipendi lordi e delle ore lavorate nel triennio dal 2008 al 2010 proprio in Irlanda. I tre grafici fanno vedere chiaramente come questo paese stia soffrendo più duramente di altri gli effetti della crisi. Leggo qualche riga appunto da Giberti: l'ultima piaga d'Irlanda non è solo l'ennesimo rischio bancarotta, l'isola è battuta da cavalli allo stato brado. Peccato che la maggior parte di loro sia fatta da esemplari domestici, spesso dei pony, che non riescono a far fronte alle insidie della vita randagia e quindi poi muoiono per fame o per malattie. Le stime parlano di un numero imprecisato, scrive sempre Giberti su Hill, compreso tra 10 e 20 mila cavalli. Dopo essere stati acquistati nei periodi d'oro dell'economia della tigre celtica, così era soprannominata l'Irlanda appunto nelle fasi positive, ed erano degli status symbol paragonabili alle automobili sportive o agli orologi di lusso, ora, complici la drammatica crisi isolana e gli alti costi di mantenimento pari a circa 30 euro al giorno, questi cavalli sono stati abbandonati dai legittimi proprietari. Nonostante la legge irlandese preveda che i cavalli siano registrati in un database elettronico, gli irlandesi non sempre l'hanno rispettata e quindi oggi è difficile risalire ai responsabili. Dunskin, che è una rigogliosa campagna appena fuori Dublino, è diventata habitat privilegiato di questi cavalli senza cavaliere. Si ammassano, scrive Giberti, a decine, battendo l'aria in lungo e in largo. I veterinari stanno cercando di prenderli in carico, di accudirli, però i numeri dell'emergenza superano le disponibilità possibilità organizzative di Dublino. E tra l'altro c'è anche un gioco che si sta diffondendo tra i teenager, un gioco pericoloso e viene definito appunto da Giberti un'aggravante idiozia che si aggiunge allo scenario. I giovanissimi annoiati teenager irlandesi pare abbiano scoperto questo nuovo passatempo, è la cavalcata notturna dei pony erranti, quindi una sorta di sfida cercando di cavalcare questi pony lasciati al loro destino in Irlanda. Questo su Il in edicola, ripeto, da ieri con Il Sole 24 Ore. Ancora su Il per un momento per segnalare una bella raccolta di dati e grafiche, poi naturalmente vi rimando al numero per vederli nella loro interezza, una doppia pagina dedicata a un fenomeno dei nostri tempi, il taccheggio. Taccheggio, voce diciamo un po' evoluta per definire quello che in realtà è il banalissimo furto che avviene spesso appunto nei grandi magazzini piuttosto che nei supermercati. È un fenomeno di rilievo mondiale, naturalmente, con il diffondersi delle modalità della grande distribuzione un po' in tutto il mondo, si diffonde alla pari anche il taccheggio, cioè la sottrazione di merce. Spiega Francesco Franchi, che insieme a Elena Montobbio ha curato questa raccolta di dati che trovate su Il, come nel 2010 dagli scaffali dei negozi siano spariti più di 100 miliardi di dollari di merce. Dice, tra l'altro, noi, si intende noi tutti i consumatori, poi ne paghiamo le conseguenze con una sorta di tassa invisibile di 163 euro. Veniamo subito a questo che è uno dei dati, molti dati trovate nella pagina perché è interessante. Dice, e noi paghiamo, c'è una tassa invisibile sulle conseguenze del taccheggio, perché naturalmente la merce sottratta poi si ricarica in qualche modo, ricade, le conseguenze della merce sottratta ricadono su noi consumatori. Quanto ricadono, quanto pesano sui consumatori? Secondo queste stime, a livello mondiale si parla di 152 euro, a livello europeo di 140 euro e a livello italiano, ohimè, saremmo a 163 euro di spesa in più a famiglia, di costo in più della spesa a famiglia proprio a causa del taccheggio. Cose un po', diciamo, divertenti, se volete, o curiose legate a questo fenomeno. Che cosa sparisce più facilmente? Dipende. Allora, a livello mondiale naturalmente la moda è diffusa, questo atteggiamento è diffuso in modo quasi uniforme in tutto il mondo, anche se ci sono delle classifiche secondo le quali l'India sarebbe al primo posto, seguita poi dal Brasile, il Marocco, l'Italia sarebbe 28esima in questa classifica del taccheggio a livello mondiale, che però forse è un po' difficile poi da verificare. Cosa sparisce? A livello mondiale, vi dicevo, al primo posto vengono i ricambi auto e i materiali di ferramenta, poi c'è l'abbigliamento, poi spariscono i cosmetici, infine gli alimenti naturali e via via, poi scendendo si arriva ai prodotti per l'ufficio, naturalmente la gioielleria, questo forse è più comprensibile, aumentando, come dire, la tentazione. In Italia il dato italiano vede al primo posto la moda, quindi l'abbigliamento di lusso, gli accessori firmati sono quelli che come dire, vengono sottratti senza passare dalla cassa con maggiore frequenza, e poi al secondo posto creme, profumi e lamette da barba. E infatti tutte queste due pagine sono state intitolate significativamente Ladri di lamette, perché le lamette da barba sono uno degli oggetti più facilmente sottratti, che vengono sottratti più volentieri dai reparti dei grandi magazzini. Più sotto, dietro le lamette da barba appunto, si colloca l'high tech con i lettori di MP3, i videogiochi e poi gli alcolici e naturalmente il cibo, ma qui diciamo più che forse il taccheggio vero e proprio si cerca, qualche volta ci sono anche stati dei casi di cronaca in cui si ponevano dei problemi proprio di sussistenza. Questo è una delle molte classifiche, ripeto, che trovate su Il in edicola da ieri, in vendita con Il Sole 24 Ore. Allora, ci fermeremo tra pochissimo per ascoltare le informazioni sul traffico, ma vi voglio anticipare che resteremo in qualche modo in un'area di illecito, perché abbiamo parlato di taccheggio, adesso vorrei parlarvi di truffe. Ha fatto molto scalpore sui giornali la truffa che è stata battezzata dei Parioli, vede protagonisti appunto una serie di illustri risparmiatori truffati. Questa storia viene ripresa da diversi settimanali. Noi abbiamo scelto Panorama anche perché un po' in linea con la tradizione nostra del Sole 24 Ore di Radio 24 fa una doppia pagina di servizio in cui dà un'indicazione di consigli che vi darò, appunto consigli antitruffa che vi leggerò dopo le informazioni sul traffico. Tra l'altro oggi con il Sole 24 Ore trovate Plus, che è dedicato proprio a come reagire ai crack, cioè se poi succede l'irreparabile, quali sono le mosse che possono fare i risparmiatori per tutelarsi, cosa è stato fatto nei casi precedenti. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, vi dicevo prima della pausa che vogliamo parlare delle truffe ai danni dei risparmiatori. È un tema che, come sapete, viene affrontato settimanalmente da Plus, dal settimanale Sole 24 Ore, che si occupa appunto del risparmio, ma sui magazine di questa settimana ha molta eco naturalmente questa cosiddetta truffa dei Parioli, in cui appunto delle persone hanno gabbato una serie di risparmiatori, spesso risparmiatori illustri, nomi noti della capitale, nominati anche in tutta Italia, e quindi c'è una sorta di ripresa di questa notizia, di commento di questa notizia su diverse delle testate che abbiamo esaminato con Anita Panizza per preparare questa puntata. Su Panorama, insieme al racconto della truffa, con testimonianze anche di qualche persona che si è trovata nella truffa, lo stesso Paolo Guzzanti, che è uno dei, purtroppo, dei protagonisti di questa disavventura, i fratelli Vanzina e altri ancora. Ecco, dicevo, su Panorama due pagine con i 10 peccati del risparmiatore, cioè cosa sbagliamo quando poi succede l'irreparabile. Forse abbiamo peccato per un eccesso di fiducia, per una mancanza di controllo. Allora, innanzitutto Panorama ci ricorda che ci sono circa 36.000 professionisti della finanza che raccolgono denaro tra gli italiani. Allora la domanda è: come facciamo a sapere se possiamo fidarci? Il decalogo. Sono 10 comportamenti in qualche modo da tenere sotto controllo. L'avidità è il primo e riguarda noi risparmiatori, che, scrive Panorama, non dobbiamo lasciarci allettare da promesse di rendimenti notevolmente più alti rispetto a quelli di mercato. Cosa significa notevolmente più alti? Dipende naturalmente dal momento, ma è chiaro che se vi promettono il doppio, il triplo o il quadruplo di quanto può rendere, che so, un titolo di Stato, forse è bene sapere che non tutto potrebbe andare bene. Non si tratterà magari di casi di truffa, questi sono, grazie al cielo, episodi circoscritti, però man mano sale il rendimento, man mano aumenta il rischio, come sappiamo. L'ignoranza è un'altra cosa a cui stare attenti, bisogna diffidare, ricorda Panorama, di società finanziarie poco conosciute, è meglio informarsi sempre presso la banca, presso un esperto finanziario di fiducia. E poi appunto la fiducia, cioè è meglio verificare le voci, le confidenze degli amici, dei parenti, dei conoscenti, perché molto spesso queste truffe cosiddette secondo lo schema Madoff, dal nome del più grande dei truffatori che ha cominciato questa specialità, nascono proprio per il passaparola. Si pensa di aver avuto una dritta impagabile e invece magari si ha soltanto avuto l'indirizzo di una persona più spregiudicata. La fretta è un altro comportamento da evitare, bisogna diffidare di chi non dà tregua. Frasi del tipo: se non concludiamo in fretta qui l'affare sfuma, la quotazione sta salendo vertiginosamente, bisogna comprare ora altrimenti dopo è troppo tardi, ecco, sono tutti comportamenti in qualche modo sospetti o da cui è meglio stare lontani o starci molto attenti. La voglia di evasione, ecco, questo è un argomento che in Italia fa molta presa, ma anche purtroppo funziona bene per adescare i risparmiatori. Perché infatti, come ricorda Panorama, uno degli espedienti più utilizzati per indurre i risparmiatori a effettuare versamenti su conti che sono domiciliati in paesi esotici o extraeuropei consiste nel far capire loro che in questo modo ci saranno guadagni naturalmente favolosi e che naturalmente saranno al riparo dal fisco italiano. Scrive in modo inequivoco Panorama: guardatevi bene dal dare retta a questi suggerimenti, l'unica certezza è che in questo modo, cioè con questi conti in paesi esotici, ecco, l'unica certezza è che non si avrà più alcun controllo sul capitale e non ci saranno più protezioni di sorta. E poi naturalmente non bisogna essere ingenui, cioè non farsi ingannare magari dal newsletter in carta patinata. Spesso ci sono delle presentazioni, delle brochure che sono bellissime ma di cui poi non si capisce chi siano appunto gli estensori, chi siano i responsabili. L'esterofilia collegata direttamente all'evasione è un'altra cosa da cui guardarsi. Attenzione a chi si presenta avendo uffici di rappresentanza in stati diversi da quello in cui sollecita i risparmi. Naturalmente bisogna stare attenti anche se vengono compiute troppe operazioni anziché una sola operazione, magari se ne fanno una serie. Questo aumenta prima di tutto i costi, non è di per sé da solo indice di un comportamento truffaldino, ma aumenta i truffi. Ultimi due consigli: non essere pigri, quindi informarsi, leggere le informazioni che vengono mandate dalle società di raccolta del risparmio, non essere superficiali, perché alla fine l'investimento finanziario è come l'acquisto di qualsiasi altro bene, di qualsiasi merce. Quindi quando compriamo un'auto ci piace magari informarci in modo puntuale, sapere tutti i dettagli, vogliamo sapere quanto consuma eccetera. Non c'è motivo di essere più superficiali quando affidiamo i nostri risparmi a qualcuno. E allora cambiamo completamente argomento, parliamo di musica per qualche istante. Non lo sapevo, ma oggi ci sarà il concerto a Milano di Justin Bieber. Justin Bieber è un personaggio che ricorre spesso nei magazine, è un giovanissimo cantante 17enne che è l'idolo peraltro delle teenager, è diventato famoso proprio grazie a internet, alla rete e ai suoi video che sono andati soprattutto su YouTube. Leggendo però alcuni brani di una intervista che Vanity Fair ha tradotto da una rivista americana che propone ora nell'edizione di questa settimana, si scopre che questo ragazzino in realtà è un ragazzino che ha inseguito in modo abbastanza tenace il successo, nel senso che la sua storia di come dire, cantante comincia a 12 anni con la partecipazione a un concorso Canoro. In questo concorso Canoro lui interpreta un certo brano, per chi è appassionato, un brano di Aretha Franklin, Respect, si classifica secondo e poi da lì comincia tutta la sua storia, perché il video di questa esibizione finisce su YouTube, diventa un fenomeno mondiale e da qui poi cominciano però i manager discografici, soprattutto Scooter Braun, che è un manager discografico di Atlanta, come racconta Vanity Fair, a introdurre Justin Bieber appunto ad musicisti professionisti, ad arrangiatori professionisti e a preparare per Bieber un successo che oramai è di portata mondiale. Lo verificheremo stasera stessa a Milano, suona appunto qui contemporanea con l'uscita di un suo nuovo album che il cui ricavato è destinato ad aiutare proprio la Croce Rossa giapponese dopo il terremoto. Justin Bieber stasera a Milano. Ecco, siccome Bieber è una persona diventata famosa grazie alla rete, una bella riflessione sulla rete viene da Wired, mensile appunto dedicato alla tecnologia e quindi con ampi tratti sulla rete, dove Maurizio Ferraris, che è il professore di filosofia teoretica a Torino, si chiede perché Facebook ha avuto così tanto successo mentre Second Life no. Forse neanche più ce la ricordiamo Second Life, ma qualche anno fa, pochissimi anni fa, sembrava che crearsi un avatar appunto e stare su Second Life fosse una cosa essenziale per la nostra vita. La conclusione di Ferraris su Wired, il motivo che lui vede è che su Second Life tutto è virtuale, mentre su Facebook tutto è reale, ma ci si può mettere un po' di finzione. Allora si può migliorare un pochino la nostra realtà, che resta tale, raccontandola, mentre inventarsi proprio un mondo di fantasia non sarebbe così divertente. Meglio restare più vicini appunto al nostro, ma vi rimando alla lettura appunto di Wired e alla sua rubrica Sans Papier la rubrica di Maurizio Ferraris, per approfondire questa riflessione tra Second Life e Facebook. Con questo il nostro tempo per oggi si è concluso. Io ringrazio Pietro Lacorte, che questa mattina mi ha assistito in regia. Vi ricordo, se volete scriverci, potete farlo alla casella postale magazine24@radio24.it, e se volete informazioni su Radio 24, sui suoi programmi, il nostro sito www.radio24.it. Magazine 24 ritorna domani mattina.